E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana dopo la pausa pasquale. Insomma, la colomba lascia il posto al nostro gufo, mi sembra di vedere, perché la borsa sta peggiorando di ora in ora. Nel caso specifico Milano perde adesso il 4,80% e va, se va avanti così, va a chiudere sui minimi della seduta. Come ricordavamo nel corso del GR, al di là di Parigi che perde il 2,5%, Francoforte perde l'1,77, non è che vada bene, ma insomma Londra l'1,26, Milano è indubbiamente la peggiore. Che cosa è successo? Ne parleremo ampiamente a borsa chiusa. Ma insomma, da un lato c'è stata, come scusa secondo alcuni operatori, l'allarme lanciato ieri dal New York Times, che ha detto le banche italiane e le banche spagnole hanno comprato in questi mesi troppi titoli di Stato nazionali, cioè troppi bonus in Spagna, troppi BTP e BOT in Italia. Devo dire che è stato chiesto anche dai governi, non hanno fatto solo in maniera autonoma, però sono ritenute da New York Times troppo esposte sui rispettivi debiti sovrani. Questa, diciamo, è l'analisi del New York Times. In realtà quello che pesa è la paura sulla Spagna e soprattutto la paura che dalla Spagna poi il contagio torni all'Italia. Non a caso, e qui rispondo a chi sta già scrivendo al 349-238-6666, uno spread a 400 punti, cioè la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costa la Germania, è del 4%. Era una differenza che non si vedeva da gennaio, ok? Da qua, dopo aver toccato a metà novembre 540 punti. La differenza con gennaio è una sola, cioè i 400 punti di spread sono sempre una brutta cosa, non è che cambino. Allora la Spagna era messa meglio di noi, in maniera a mio avviso inspiegabile, cioè aveva uno spread più basso del nostro, e secondo molti osservatori noi pagavamo anche a novembre, a dicembre, a gennaio anche la variabile politica. Oggi la Spagna è messa peggio di noi, ripeto, non si può dire, prima che qualcuno inizi a fare polemica, non sto dicendo mal comune mezzo gaudio, quando hai 4 punti percentuali in più di rendimento nei tuoi titoli di Stato per trovare finanziatori sul tuo debito, sei messo male, basta, rispetto alla Germania. Però la Spagna è a 430 punti, a significare che il rischio sulla Spagna è prezzato ancora più alto rispetto al rischio sull'Italia. La Francia pure risalita a 133, poi abbiamo il Portogallo che è a 1067 punti. La cosa impressionante è che quella che si chiama flight to quality delle volte, cioè la fuga verso la qualità, ha fatto sì che tutti gli investitori che hanno venduto Italia e Spagna abbiano comprato Svizzera oltre che Germania. Il tasso delle obbligazioni in Svizzera, dei bot a 6 mesi in Svizzera, è negativo, cioè se tu presti soldi alla Svizzera te ne tornano indietro meno. Vedo la sorpresa del tecnico, è però così, cioè quando un paese è considerato così affidabile e non si sa dove mettere i soldi, tu preferisci mettere 100.000 euro in Svizzera anche se il rendimento è negativo di uno 0,25%, cioè a fine, dopo 6 mesi avrai lo 0,25% in meno, perché dici meglio metterli lì che non tenerli in giro o lasciarli su titoli più a rischio. Il Fondo Monetario dice, attenzione, come ricordava Gera, le recessioni precedute da un forte aumento del debito tendono a essere più severe e prolungate. In Spagna, nel frattempo, di Spagna parleremo nella seconda ora del programma, ci sarà un'altra manovra da 10 miliardi, tagli alla sanità e all'educazione, e, dopo che già aveva adottato a fine marzo una manovra da 27 miliardi, che per la Spagna, che è un paese che vale meno della metà dell'Italia come PIL, vuol dire la manovra più pesante dalla fine del franchismo, cioè da quando esiste la democrazia in Spagna. E poi una cosa che mi ha avviso un po', fa un po' ridere, il governatore della Banca Centrale Spagnola Miguel Fernández Ordóñez dice, la retromarcia italiana sulla riforma del mercato del lavoro sta creando ansia. Adesso starà anche creando ansia, sta creando molta polemica qui, ma dire che i mercati vendono Italia e Spagna per la riforma sul mercato del lavoro è un po' troppo. La Spagna pensa ai fatti suoi, noi pensiamo ai fatti nostri. Ancora, molti di voi ci chiedono la fase 2 del governo, tasse, tasse, tasse, niente crescita. Attendiamo, dovrebbe esserci in settimana un vertice al Consiglio dei Ministri proprio sulle iniziative per la crescita. Io mi auguro che arrivino in fretta, se non in frettissima, continuiamo a dirlo. Mentre va avanti anche il nostro appello alla politica, adesso vedo che Milano perde il 5% e Intesa l'8%, oggi prima chiude la borsa meglio è, ma l'appello alla politica, e cioè lo diciamo venerdì dopo aver ascoltato l'ennesima imprenditrice che rischia di chiudere, che ha già messo 4 dipendenti su 4 in cassa integrazione, che ha dovuto fare un mutuo per pagare le tasse nel 2011, un mutuo per pagare le tasse. Abbiamo detto perché la politica, cioè con i 420 milioni di finanziamento ai partiti, visto che c'è una tranche da 100 milioni che deve arrivare, non fa un gesto per riacquistare un po' di credibilità, di consenso, e dice rinunciamo a una quota, vuole rinunciare a questi 100 milioni, li destiniamo a un fondo per le piccolissime imprese e per aiutare le piccolissime imprese in difficoltà, poi decidiamo come, decidiamo chi lo deve gestire, il governo, lo Stato ha i suoi mezzi. Ma sarebbe un gesto importante. Questo appello lo gireremo a breve anche su Facebook, però chi lo vuole condividere lo condivide. Intanto rapidamente con le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri SMS. Petrolio e oro, oggi il lingotto sale a 1652,7 dollari l'oncia, il petrolio in leggero calo a 102,28 dollari al barile. Di spread e Spagna abbiamo già detto, e anche di Svizzera. Invece in Germania a sorpresa è cresciuto l'export a febbraio più 1,6%, e in Germania la congiuntura positiva, la Germania è l'unico paese che non ha problemi sul debito, ha un debito, ha degli interessi sul debito negativi addirittura come la Svizzera oggi. Beh, la congiuntura positiva fa sì che nei prossimi mesi le grandi aziende tedesche assumeranno 80.000 nuovi dipendenti, e emerge dal monitoraggio trimestrale condotto dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, che considera solamente le offerte di lavoro sopra le 100 unità, 80.000 nuovi dipendenti solo tra le grandi imprese nei prossimi mesi, e in costante aumento il numero di posti offerti agli ingegneri. Pensate, a febbraio salito il numero di posti offerti agli ingegneri di 100.000, oltre 100.000 unità. E poi c'è una buona notizia con cui apriremo la puntata di Focus Economia. Riguarda l'IKEA che ha deciso di trasferire alcune produzioni, sentite un po', dall'Asia all'Italia, incredibile, ne parleremo proprio in apertura. E adesso però mi tocca rovinare questa buona notizia con invece notizie che riguardano la crisi vissuta da altri, la crisi che non c'è. Per altri, la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? 349-238-6666 per i vostri sms. No, scusate, avete ragione, non ho dato i titoli, e allora ve li do rapidamente. Intesa San Paolo meno 8,1, A2A meno 7,90, Unicredit meno 7,80, ST Microelectronics perde 7,60, il Banco Popolare il 7,31, Buzzi Unicem il 7, l'Automatica il 6,60, il 6,5 lo perde la Popolare di Milano, ma anche UbiBanca e Fiat, il 6% è il calo di Saipem, il 5,70 è quello di Exor di Ferragamo, il 5,5 è il calo della Popolare Emilia Romagna e di Finmeccanica, ma anche di Tenaris, il 5% lo perde Fiat Industrial, quindi auto e trattori, Media 7 perde il 4,90, Atlantia il 4,70 come le generali, il 4,70 lo perde anche Mediolanum, il 4,5 Mediobanca, il 4,1 Parmalat e Pirelli, il 3,90 Eni, ma anche Prismian, Enel, Green Power. Chiudo con chi perde più del 3%, ossia Autogrill -3,60, Telecom -3,12, Luxottica -3,1. Chi guadagna? Il Monte dei Paschi, l'1,07%. Peggior titolo, vabbè, Seat, pagina gialla in questo momento, -12,20%. Dicevo, ci tocca occuparci anche oggi di questa crisi, la crisi degli altri, quella che vivono in maniera un po' diversa dai nostri ospiti. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, molti di voi ci hanno chiesto del finanziamento ai partiti e della vicenda Lega. La vicenda Lega è una vicenda che riguarda la cronaca politica da un lato e la cronaca giudiziaria dall'altro, e quindi non è tema elettivo di questo programma. Però una riflessione, visto che spesso parliamo dei costi della politica, al di là delle vicende giudiziarie e di carattere politico, quello che è incredibile, anche nella vicenda del figlio di Bossi, di Renzo Bossi, al di là di come ha ricevuto i soldi, tutta la parte, ripeto, degli scandali, però lui si è dimesso da consigliere della Regione Lombardia, dove era eletto 2 anni fa. Ebbene, prendeva, e questo vale per qualunque consigliere, non solo per il figlio di Renzo Bossi, prendeva 150.000 euro netti l'anno, ossia quanto il governatore del Maine, Paul LaPage, quello del Colorado John Hickenlooper e quello dell'Arkansas Mike Bibby messi assieme, cioè i tre governatori di questi tre stati americani, Maine, Colorado e Arkansas, prendono assieme, e sono i governatori, non i consiglieri della regione, quanto un consigliere regionale in Lombardia. E pensate che Renzo Bossi, ripeto, non è lui l'oggetto, ma sono i costi della politica, quanto prendono i consiglieri lombardi, prende il doppio esatto praticamente di un deputato all'Assemblea della California. Ora, la California è il 7° paese al mondo quanto a PIL, se fosse un paese. Questo secondo me è la cosa che obiettivamente lascia perplessi, perché insomma, al di là delle vicende di cronaca, e sono i costi netti della politica. Un ricone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. E allora si scopre, poi facendo un paragone, che i finanziamenti, nonostante il referendum li avesse bocciati, ma sono tornati come rimborsi elettorali, nel 2011 i finanziamenti ai partiti supereranno i 400 milioni di euro, così suddivisi. 200 milioni di rimborsi elettorali, e anche qui abbiamo fatto già sapere che sono 4,5 euro di rimborso per ogni euro speso, cioè per ogni euro speso in campagna ne ottengono 4,5, e per accedervi basta superare l'1% dei voti nonostante la soglia di sbarramento al 4%. Poi ci sono 50 milioni di euro di finanziamenti di privati, e qui va benissimo se un privato vuole finanziare la politica, anzi lo trovo anche un gesto nobile. La cosa inaccettabile secondo me è che la detrazione che il privato può ottenere finanziando la politica è del 19% fino a 103.000 euro, ossia è 50 volte più alta questa detrazione di quanto uno non otterrebbe se finanziasse e desse i suoi contributi alla ricerca medica. Allora, si può vivere in un paese in cui tu detrai 50 volte in più se finanzi un partito rispetto a quanto potresti detrarre se avessi finanziato la ricerca medica, tra l'altro potendo versare anche in maniera anonima? Poi ci sono altri 50 milioni di finanziamenti ai giornali di partito, 75 milioni di contributi ai gruppi consigliari e 75 milioni di contributi ai gruppi consigliari ulteriori regionali. In Inghilterra il finanziamento pubblico ammonta a 12 milioni di euro, in Francia è di 80 milioni e in Spagna si è arrivati a 131 milioni, in Germania a 133 milioni. Quindi, in ordine, dal più basso, Inghilterra 12 milioni, Francia 80 milioni, Spagna 130, Germania 133, l'Italia con 400 milioni si aggiudica oggi il nostro Oscar per quello che riguarda la crisi. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. Ecco perché il nostro appello, lo ripeto, condividetelo su Facebook, poi faremo anche un'iniziativa più strutturata tra una settimana, quando la radio partirà con un viaggio sulle emergenze del paese, le altre emergenze del paese. Ma dicevo, insomma, di fronte a questi finanziamenti, 400 milioni di euro in tutto, chiediamo ai partiti, visto che domani c'è l'incontro ABC, no? Alfano, Bersani e Casini, perché non fate un gesto simbolico ma anche economico? I 100 milioni che devono arrivare, decidete che non arrivano più, tanto avete avuto rimborsi 4,5 volte superiori ai costi avuti per quello che riguarda la campagna, create un fondo, poi si può vedere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una banca che faccia da garanzia, alle Poste, tanto tutta roba dello Stato, no? E allora un fondo da 100 milioni in cui possono accedere i piccolissimi imprenditori, quelli che noi intervistiamo. Mi fate fare un appello tipo italiani? Italiani! Sottoscrivete con noi questo invito alla politica. Date i soldi che ancora non avete ricevuto per il finanziamento ai partiti, per i piccoli imprenditori che non ce la fanno più, artigiani, commercianti. Troveremo un modo, vediamo chi risponde al nostro appello. Ancora una notizia sulla crisi da leggere, poi passiamo all'IKEA, che è una buona notizia invece. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Allora, noi non interveniamo quasi mai sugli stipendi dei privati, perché lì ci sono i consigli di amministrazioni e di amministrazione e anche poi sono società private, però un minimo di corrispettivo tra come va un titolo in borsa, come va un'azienda e quanto uno guadagna dovrebbe esserci. Lo dico col massimo rispetto alla famiglia Moratti, perché la Saras, società del gruppo Moratti, quella che fa raffinerie principalmente in Sardegna, ha corrisposto nel 2011 ai componenti della famiglia Moratti. Già facciamo un discorso analogo con Fondiera Assai, che non c'entra nulla perché lì proprio il titolo è, insomma, è un passo dal fallimento, però ha corrisposto ai componenti della famiglia Moratti 6 milioni e mezzo di euro di stipendi. Gianmarco Moratti 2 milioni e mezzo a testa, e Massimo Moratti 2 milioni e mezzo a testa, e vicepresidente Angelo Moratti 1 milione, e via così. Tutto bene, Letizia Moratti, no, scusatemi, l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti e Gabriele Moratti, figlio di Gianmarco, 160.000 euro, e via avanti così. C'è un unico problema: la Saras nel 2011 ha perso 18 milioni di euro. È migliorato il conto economico rispetto ai 34 milioni del 2010. Il titolo ha perso il 50%. So, forse i compensi, aumentare i compensi, potrebbe anche farli in qualche modo corrispondere a quello che è l'andamento del titolo in borsa e anche l'andamento del bilancio a fine anno, no? Questo vale per tutti i manager di tutti i gruppi, non solo, ci mancherebbe, per la Saras. E adesso invece occupiamoci dell'IKEA, da lì sì arrivano buone notizie per il nostro paese. Buona notizia, dicevo, perché in questo periodo veramente le cerchiamo con lanternina, ma questa è grossa. IKEA, che pure ha avuto problemi nel nostro paese, e poi vi arriviamo, ha confermato il trasferimento di alcune produzioni dall'Asia all'Italia. Avete capito bene? Dall'Asia all'Italia. Cioè, il rapporto con 24 fornitori italiani per circa 1 miliardo di euro di acquisti, fa da tempo del gruppo IKEA, questo leggiamo nella nota, il primo cliente della filiera italiana del arredo legno, che vale l'8% degli acquisti mondiali del colosso svedese, al terzo posto dopo Cina e Polonia. Lars Peterson, amministratore delegato di IKEA Italia. Buonasera. Buonasera. La sento un po' male. Buonasera, mi sente? Sì, sento Eccoci. Bene. Allora, ci faccia capire, voi avete deciso di spostare in dove, tra l'altro, alcune produzioni che prima avevate in Asia. Vorrei sapere anche da dove le spostate in Asia. Allora, noi abbiamo sempre comprato di più in Italia che abbiamo venduto. 10 anni fa, per esempio, avevamo una vendita complessiva del globale di 3% in Italia, abbiamo già all'epoca comprato 4% in Italia. Adesso percentuale 7% della vendita e 8% dell'acquisto, quindi l'Italia è storicamente sempre cresciuto come paese di acquisto. Adesso stiamo sempre guardando di più il costo di logistica che sta alzando, il costo ambientale, il carbon footprint che è molto importante nel nostro bilancio, ma anche sulle parti qualitative, la competenza, il know-how in Italia, il basso numero di reclami e pochi difetti. Però altre ragioni, IKEA non regala niente a nessuno, quindi è sempre una gara mondiale per nuovi fornitori e quelli italiani devono sempre combattere con quelli della Cina o Malaysia. Allora, per fare capire a tutti, mi scusi, voi praticamente farete produrre alcuni dei mobili IKEA che adesso fate produrre in Asia da produttori italiani? Sì, ecco. Perché già adesso una cucina su tre che voi vendete in tutto il mondo è prodotta in Italia? Sì, giusto. Che resta uno dei produttori principali dei vostri pezzi, ho capito bene? Sì. Ah. Allora, a quanto ammonterà questo spostamento di, non di investimento, ma insomma di fornitori? Cioè, quanto vi fornivano e vi forniscono i fornitori asiatici che verranno rimpiazzati da quelli italiani? Adesso è iniziato il processo, io non posso dire adesso i numeri esatti, però abbiamo iniziato con un paio di fornitori già e alcuni seguono adesso presto. Non ho i numeri, come non sto d'accordo con i fornitori, non diamo anche i nomi dei fornitori, però adesso è iniziato il processo e noi vogliamo anche fare di più in Italia se è possibile. Ecco, ricordavo all'inizio che voi però avevate avuto un'esperienza non bellissima nel 2011 in Italia, perché avete cancellato un investimento da 70 milioni di euro e 350 posti di lavoro perché ci sono voluti più di 6 anni per avere una risposta dalle autorità locali del comune di Vecchiano Pisa, per dove voi volevate aprire il negozio, lo stabilimento IKEA. Noi li abbiamo avuti ospiti, ricordo una puntata delirante in cui c'era un rimpallo di responsabilità, quindi intanto un applauso agli amministratori di Vecchiano, provincia di Pisa, la località Migliarino, per aver rinunciato a 350 posti di lavoro e 70 milioni di euro di investimento. Un applauso anche per loro. Adesso però mi dica come mai, nonostante quell'esperienza, voi tornate a investire in Italia? Allora, come ho detto prima, per noi è importante di sempre dare una qualità più alta e il prezzo più basso ai nostri clienti, quindi per noi è importante di produrre i nostri prodotti con il costo complessivo più basso possibile, qualità più alta possibile, e naturalmente quando si adesso guarda anche il costo del logistico ambientale, sta diventando sempre più importante di produrre più prodotti più vicino ai negozi, quindi più vicino all'Europa. Ma perché non avete scelto un altro paese? Cioè, si dice sempre che l'Italia abbia tutte le caratteristiche per non essere attrattiva negli investimenti? No, abbiamo scelto Italia perché abbiamo abbiamo una bella esperienza con produttori italiani. La qualità e la competenza, il ristretto intorno a un fornitore italiano è molto molto buona. Il know-how molto profonda del produzione, e come dicevo prima il basso numero di reclami e pochi difetti, è molto flessibile e poi ci hanno mostrato la capacità di cambiare abbastanza veloci i bisogni che abbiamo noi, e questo ci ha c'è una grande flessibilità nei vostri fornitori anche nel cambiare prodotto, che devo dire è da sempre la grossa forza delle piccole imprese italiane, cioè che sanno cambiare linee di prodotto, adattarsi a quelle che sono le richieste dei loro delle case, dei gruppi a cui loro fanno fornitura. 17:39 minuti, in una giornata in cui la borsa ha chiuso a Milano con un meno 5% di calo e le banche assieme a A2A e a Steam Microelectronics sono sprofondate, abbiamo una buona notizia, ossia il fatto che l'IKEA ha confermato il trasferimento di alcune produzioni dall'Asia all'Italia. Allora, ha ragione chi dice non è un investimento in senso stretto, perché cambi semplicemente i fornitori. Però voglio dire, non lamentiamoci con l'aria che tira, è meglio avere un fornitore italiano per i mobili IKEA che un fornitore asiatico, abbiate pazienza, per noi. E altri dicono, attenzione, sono solo i costi della logistica. Vabbè, ho capito, saranno anche, l'ha spiegato molto bene l'amministratore delegato Lars Peterson, e anche per motivi logistici, ma evidentemente li fanno anche bene questi mobili. Peterson, visto che poi voi, oltre che avere scelto i fornitori, investite anche in Italia con appunto i negozi che aprite, mi può fare la classifica delle cose che pesano di più contro l'investimento in Italia, cioè perché si disinveste o non si investe in Italia? Mi dica la prima. La prima sarebbe la poca certezza dei tempi. Per noi è molto importante, siccome i nostri investimenti sono intorno a 70 milioni di euro per ogni negozio, non è una cosa semplice di mettere in moto un negozio, si deve assumere persone molto presto, siccome vendiamo in tanti volumi dobbiamo anche avere la fornitura fatta, e quindi è abbastanza un progetto grande, quindi con tempi difficili da prevedere diventa molto difficile per noi. Quindi la burocrazia? Sì, per la burocrazia o l'incertezza, perché se anche con la burocrazia che abbiamo in altri paesi, anche se si sa almeno che fra 5 anni si può aprire questo negozio, fra 4 anni, è molto, molto più semplice per noi di prepararci per arrivare. Quindi lei direbbe burocrazia, ma anche il fatto che non ci sia certezza in cosa? Nelle decisioni politiche o nelle decisioni, nelle sentenze della magistratura, in che cosa? Ma certezza in tutto, naturalmente politica, tutto il progetto, come andare avanti, quindi i tempi in questo caso sono molto imprevedibili. Allora, al primo posto l'incertezza sui tempi, dalla burocrazia diciamo alle scelte politiche. La criminalità dove la mette? No, non è questa, in questo caso l'Italia non è unica del mondo. Cioè, ho capito, ma non è che ho detto che non c'è, ma ho detto che non siamo gli unici. Noi siamo, siccome abbiamo questi progetti importanti in Italia, se noi avessimo potuto avere una certezza della pianificazione dei nostri negozi, io metto come la più grande, la più importante ostacolo. E questo, se riuscissimo a avere questo chiaro, noi possiamo continuare molto più facilmente per il nostro piano di investimenti in Italia, che fra l'altro abbiamo anche confermato adesso, anche negozi, come ha detto lei, a Pisa, continuiamo anche a Perugia, e altri posti. Mi chiedono gli ascoltatori, oddio, ho perso un messaggio, se era confermato un vostro progetto al sud, Benevento può essere? No, a Chieti. A Chieti? Sì, e questo progetto apre fine agosto quest'anno. E polo logistico è che a Benevento, non ce n'è? No. Allora, al primo posto l'incertezza, quindi i tempi della burocrazia, dei permessi, le decisioni dei sindaci. La criminalità mi dice che ce l'avete anche in altri paesi, e il mercato del lavoro, cioè articolo 18, è un problema o no? Il mercato del lavoro, io se posso avere il nostro bisogno sarebbe molto più flessibilità interna. Noi non abbiamo, siccome stiamo espandendo la nostra flessibilità di uscita, in questo momento non è importante, ma invece la flessibilità interna, quindi cambiare mansione, cambiare reparto, cambiare orario di lavoro e dare la possibilità di essere più vicino a quando il cliente ha bisogno. E siccome questo cambia in continuazione, noi dobbiamo essere flessibili e bravi a essere presenti quando il cliente è qui. Con i contratti attuali questo non è così semplice. Ma lei, cioè, lei nell'articolo 18 ha un problema? No, per noi attualmente non facciamo un caso sull'articolo 18, noi stiamo più lavorando sulle persone che abbiamo già e cerchiamo di sviluppare sempre il nostro business insieme con queste persone. Stiamo fra l'altro assumendo persone in questo momento e noi preoccupiamoci più di avere la possibilità di mettere le persone attuali nel posto giusto al momento giusto. Ma insomma, visto che è la polemica di questi giorni, è più un problema di flessibilità in entrata o in uscita? Per noi è la flessibilità è interna già. Interna. Persone che abbiamo già assunto, è questo che stiamo occupandoci in questo momento. Quindi non è né all'interno né in uscita, ma in entrata né in uscita, ma è tutta all'interno. C'è qualche altro limite agli investimenti in Italia che le viene in mente o abbiamo concluso, secondo lei? Naturalmente oltre ogni tanto mancanza della infrastruttura che è un po' un problema naturalmente, ma al di là di questo Italia è come è un paese che vogliamo continuare a investire. E non siete preoccupati della borsa, dell'euro, della tenuta dell'area euro? Ma noi cerchiamo sempre a pensare a lungo termine. In lungo termine delle cose cambiano sempre e noi pensiamo in lungo termine che comunque i nostri investimenti in Italia sarebbero quelli giusti. Oh, grazie, perché appunto sia che siano investimenti diretti oppure un cambio di fornitori dall'Asia all'Italia, alcuni dicono ma strozzerete i fornitori. Non lo so, li strozzate i fornitori? Noi abbiamo sempre un piano in lungo termine con i nostri fornitori, quindi è un rapporto buono, reciproco, a noi dobbiamo essere contenti sia noi che i nostri fornitori. Che contratto, vogliono sapere tutto, che contratto fate ai dipendenti? Non ho capito bene la domanda. Che tipo di contratti fate ai vostri dipendenti? Hanno o un contratto a termine e un contratto in tempo indeterminato, in part time o in full time. Abbiamo queste diverse tipologie. Perfetto, grazie. Spero che non sia l'unica scelta di scegliere italiani come fornitori e di fare altri siti. Mi chiedono se a Verona. A Verona aprirete, per adesso non è che possiamo fare la puntata sulle scelte dell'IKEA. Andate sul sito e cercate. A Verona aprirete? Certo. Sì, certo. Ecco, quindi contento anche l'ascoltatore di Verona. Grazie all'amministratore delegato di IKEA Italia, Lars Peterson. Meno 5% Milano con i casi delle banche, ma anche di altri titoli, tra virgolette, insospettabili. Faccio notare che Parigi alla fine ha perso il 3,1%. Francoforte il 2,5% e Londra il 2%, per cui proprio oggi i mercati fotografano la graduatoria dell'incertezza. Madrid e Milano le peggiori, tra le peggiori, poi Parigi meno 3, Francoforte meno 2,5% e Londra meno 2%. I titoli, dicevo, al di là dei bancari, ma ST Microelectronics perde l'8,20%, A2A l'8,17%, poi c'è la pattuglia delle banche, meno 8,1% Unicredit, meno 7,90% Intesa, meno 7,30 al Banco Popolare e meno 6,80 alla Popolare di Milano. Cito però anche il Banco Popolare meno 7,30, l'Automatica meno 7, Buzzi Unice meno 6,80%, che mi manca? Fiat meno 6,40 e ancora su Industrial meno 5,10, Mediaset meno 5,20, Tenaris meno 5,50, Ferragamo meno 5,60, Exxon meno 5,70. Finmeccanica meno 5,90%. Ciao Condina, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Insomma, New York Times che ha lanciato l'allarme sulle banche italiane e spagnole che hanno troppi titoli di Stato nazionali in pancia e là le vendite. Eh sì, sì. sì, anche perché insomma un doppio allarme, perché poi se un giorno questi titoli di Stato dovessero tornare a virare al ribasso, cosa che poi hanno fatto oggi, visto che lo spread è arrivato a quota 400, a quel punto non sarebbe solo lo Stato a rimetterci quando deve rifinanziarsi, ma anche le banche che hanno in portafoglio questi titoli. Poi è quello che è esattamente quello che è successo in Grecia, ovviamente con le debite proporzioni. Quindi oggi insomma le banche hanno pagato molto pesantemente dazio, basta pensare a Intesa che è scesa a 1,1 euro, ha perso quasi l'8%, come dicevi tu. Sì, non solo Intesa, mi sembra un po', cioè, sembra un po' strano che adesso, con tutto il rispetto per la serietà e il prestigio del New York Times, che basti un articolo del New York Times per far muovere i mercati. No, vabbè, abbiamo visto lo spread fattori, anche a 400 punti in Italia, 430 in Spagna, insomma si è tornati a vendere. Il dato di oggi sui titoli di Stato svizzeri a 6 mesi negativi dello 0,25%, vuol dire che c'è la fuga verso la qualità, la fuga dalle obbligazioni. Non so, possiamo distinguere tra qualche titolo o oggi è tutto un ammasso? Ma è abbastanza un ammasso. Oggi per esempio Campari comunque perde l'1,2% e si conferma come un titolo anticrisi. Questo non per fare un elogio gratuito a Campari, ma comunque guardando le performance insomma degli ultimi mesi, anche degli ultimi anni, è tra i pochi titoli a avere delle performance positive. Tu prima parlavi di titoli molto negativi, hai citato ST A2A, ST perde l'8,2%, questo oggi perché c'è stata una sentenza già di ieri, questa notizia di ieri, quando tuttavia la borsa era chiusa, che dovrà pagare una società olandese NXP 59 milioni di dollari. Ciò ha portato ovviamente a un calo del target sul margine operativo lordo per quest'anno. In una giornata di borsa come questa, veramente gli operatori hanno cavalcato questa notizia. Invece su A2A pesa la riapertura del dossier da parte del ministro Passera, e quindi forse le incertezze su come si concluderà l'operazione. No? Sì, c'è un'enorme incertezza sull'operazione Edison, anche se sembra che EDF possa consentire alzare il prezzo dell'OPA, però poi ci sono anche dei problemi tutti di A2A, come l'indebitamento che salirà a 5 miliardi, un piano industriale che è tutto da riscrivere, dei comuni che non sono in grado più di sostenere la società, anzi continuano a drenare risorse, e quindi la borsa ha punito severamente il titolo, che continua a essere sui minimi storici. Ancora qualche titolo tiene, tu citavi già Campari, cioè il Monte dei Paschi oggi effettivamente, con quello che fanno le concorrenti, più 0,28. Sì, un po' un mistero questo oggi, devo dire. Chi ha comprato? No, nel senso che, per carità, molto aveva perso nelle settimane passate, ma sarà o forse c'è qualche fiducia mese in profumo. Vabbè, A2A dicevamo di Steam Microelectronics, RCS invece qualche segnale l'ha dato, no? Sì, dopo l'aumento della quota di Rotelli, che ha comprato la quota di Toti. Assolutamente, della sera. E febbre insomma da acquisto, perché oggi ho guadagnato il 5,4, ma è arrivato a guadagnare anche più del 12%, Rotelli come noto è salito al 16%, insomma dopo qualche anno, dopo la famosa saga di Ricucci, il titolo RCS torna sotto i riflettori. Ricordiamo che a quei tempi era arrivato a valere più di 6 euro, oggi è 0,8. Bene anche, perché qualcuno va bene, la Juventus che si avvantaggia dell'andamento nel campionato, più 7,31%, Fintel più 5,50%, e la Lazio più 3,82. Chi perde? Mondo TV meno 20, Seat pagine gialle meno 11, novità su Seat? Assolutamente no. Meridiana meno 11,5, sì, ormai è trasparente quasi. Credem meno 10,30, Cape Listed meno 10, e poi Banca Popolare dell'Etruria meno 9,80%, Premafin meno 9,5 e Fondiaria meno 9,14. Gruppo Ligresti. Il gruppo Ligresti, anche qui siamo in attesa delle assemblee di Unipol di fine mese, non ci sono grandi novità oggi, devo dire, ma questi titoli ogni giorno vanno sull'ottovolante, in attesa dei concambi fondamentalmente. Grazie a Ciao Conne nella Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso c'è il GR, poi ci occupiamo di Spagna e di Borsa, e troveremo anche a fare l'appello affinché i politici, i partiti devolvono i 100 milioni che devono ricevere di finanziamento ai partiti a un fondo per le piccolissime imprese, artigiani, commercianti, piccolissimi imprenditori in difficoltà che non riescono più a starci dentro. Poi troveremo il modo in cui fare un fondo di questo tipo. Ok, ma intanto sarebbe un bel gesto. Devo dire a chi scrive sul numero 1 dell'IKEA che abbiamo avuto ospite, beh sì, secondo me è interessante vedere che il primo problema per un grande gruppo straniero è l'incertezza dei tempi. È interessante anche sentire che il suo problema sul mercato del lavoro in Italia non è in entrata o in uscita, ma è nella gestione interna, e quindi burocrazia e tutele sindacali, delle volte anche nella semplice riallocazione interna dei dipendenti. 18 e 7 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di tornare ad analizzare la giornata di borsa, quindi capire l'effetto Spagna, l'effetto spread, l'effetto titoli di Stato sulle banche, ma non c'è solo quello, vorrei però approfondire un'altra notizia che è arrivata oggi e riguarda le frequenze per le televisioni, il cosiddetto beauty contest, che in realtà è un tema anche di frizione politica secondo alcuni. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, riassunto delle puntate precedenti, sono in gara sei multiplex di frequenze TV che il loro governo Berlusconi, per scelta del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, aveva stabilito con un'assegnazione attraverso un beauty contest, concorso di bellezza vorrebbe dire in inglese, ma di fatto niente asta, una concessione gratuita dei canali a chi aveva già i requisiti. Polemica dell'opposizione a quel tempo, si è detto regalo alle televisioni di Berlusconi, quindi al gruppo Berlusconi, che secondo Mediobanca, tra l'altro, lo Stato se vendesse, non regalasse il multiplex, potrebbe incassare tra 1 miliardo e 1 miliardo e 200 milioni di euro. E tra l'altro su questo oggi, e proprio su questo oggi, è arrivata la novità da parte del ministro Passera, che ha annunciato che il beauty contest verrà azzerato e quindi si farà una vendita pubblica, il bene complessivo verrà spacchettato. Vorrei capire di più con Marco Mele del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera. Allora, Passera che cosa ha annunciato? Cioè che questo, lo Stato incasserà, non regalerà questi multiplex? Allora, la questione è un po' più complessa. Dunque, allora le frequenze, si tratta di 10 frequenze che compongono 6 multiplex. La spacchettatura riguarda il fatto che, provo a spiegarlo, 4 di queste 10 frequenze, quindi in realtà 3 multiplex più una parte di uno degli altri, fanno parte di una banda di frequenze che a livello la Conferenza Mondiale di Ginevra ha stabilito andassero dal 2015 alla banda larga mobile. Quindi non posso essere date con una tipo una licenza o un'autorizzazione ventennale come le altre. Quindi lo Stato ha deciso di fare una gara. In realtà questa gara riservata alle televisioni non darà, difficilmente darà l'importo previsto dalla Mediobanca, che francamente non so su che cosa si possa basare, nel senso le frequenze valgono anche molto di più, ma dipende dall'uso che se ne fa, cioè per la banda larga mobile hanno un valore, per la televisione che costa molto come produzione di contenuti ovviamente il valore sarà molto inferiore. Comunque il governo prepara una gara con due lotti distinti, le frequenze fino al 2017, fino al 2018 e le altre. Probabilmente quasi sicuramente riservata alle televisioni, se non ci sono interventi dall'estero, cioè che intervengono operatori esteri, una gara così fatta non può che favorire chi è già più forte, un po' esattamente come l'assegnazione gratuita del beauty contest, cioè non si scappa, cioè se non si fa un intervento antitrust sulle risorse del sistema, o l'assegnazione gratuita o dall'assegnazione gratuita si tolgono chi è in posizione dominante, ma questo non si è fatto, cioè Rai e Mediaset in primo luogo. Rai e Mediaset, in qualche modo anche Sky. E anche Sky, certo. Oppure se si fa la gara non va, perché cioè il beauty contest era fatto perché la Commissione Europea dice nel sistema televisivo italiano ci vuole più pluralismo e più concorrenza, quindi bisogna favorire i nuovi entranti e gli operatori minori. Il problema è che io non ho tanti operatori minori, nei fatti non ne ho favoriti né con Contes né con questa gara. C'è poco da fare. Cioè, tu dici o si impedisce. Perché? Ma perché? Bisogna spiegare perché? Perché dici perché un aumentante non può fare la gara a varie cose? Perché? Perché i contenuti televisivi, uno, costano, due, i diritti sono già tutti venduti. Cioè, è difficile entrare nel sistema televisivo da zero. Perché costano i diritti, costa fare i contenuti, è totalmente diverso dalla banda larga telefonica. E quindi è chiaro che chi i diritti già ce l'ha, e quindi quelle che tu hai già nominato, ovviamente, Mediaset e Rai, ma non hanno neanche l'interesse a andare a fare una gara a prendere queste frequenze, perché uno, le frequenze ce l'hanno già. E un domani, quando arriverà il nuovo standard televisivo, diciamo nel 2017-2018 proprio, che si chiama DVB-T2, l'attuale capacità delle frequenze sarà più che raddoppiata, cioè dove oggi si fanno 6 programmi se ne fanno 12. Per cui non è che hanno questa fame di frequenze Rai e Mediaset. Per cui, se ho ben capito il tuo ragionamento, Marco, tu dici o si escludono gli operatori già presenti sul mercato e dominanti, Rai, Mediaset e Sky, e si dice queste frequenze vanno solo a nuovi soggetti che arriveranno dall'estero, e allora si apre veramente il mercato, se no anche facendole pagare, e quindi non regalandole, ma siccome di fatto andranno a Rai, Mediaset e Sky, che hanno già i contenuti, sono già pronte, stanno già lavorando, se vogliono ecco, probabilmente il prezzo ottenuto sarà ben più basso per lo Stato del miliardo e due che stima Mediobanca. Però ci sarà grossa competizione, perché sono 4